البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. Buongiorno Palestina. 152esima trasmissione su Radio Wombat. La situazione a Gaza è drammatica e ignobile. Non sono parole nostre, ma quelle pronunciate da Papa Francesco il giorno di Pasqua, il giorno prima di lasciare la sua vita terrena. Noi vogliamo pensare che almeno una parte delle 250.000 persone che hanno reso omaggio alla sua salma condividano le sue parole e vogliano farle proprie. E in questa puntata vogliamo farvi ascoltare la voce di uomini e donne di fede che manifestano apertamente la situazione a Gaza e non temono le rappresaglie di Israele. Ascolterete il vescovo di Manfredonia Franco Moscone in piazza il 30 marzo scorso. Ascolterete poi la voce della ministra degli esteri palestinese Barzen Shaheen, intervistata dalla radio televisione svizzera, e Francesca Albanese con Roberto Iacona, che a presa diretta domenica 27 scorso ha mandato in onda su Rai 3 un servizio su Gaza, in anteprima realizzato da due giovanissimi palestinesi, Fatena Karim, fotografa e filmmaker, e il giornalista Al Hassan Selmin, che 6 anni fa con Matteo Del Bo filmava Erasmus a Gaza, dai tetti di Gaza City. I due giovani, durante la tregua, hanno documentato la migrazione di ritorno della popolazione di Rafah verso il nord a Gaza City e poi di nuovo l'inizio del bombardamento e i massacri israeliani con la violazione della tregua. Dedichiamo la seconda parte della trasmissione a un'intervista al professor Lorenzo Camel, ospite di Sergio Zanchini nella trasmissione Quante Storie, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro dal titolo Israele-Palestina in 36 risposte, edito da Einaudi. Troverete il link alle interviste integrali sulla pagina blog della trasmissione di oggi. Tutto questo dopo la rassegna stampa e un commento sulla presenza della Palestina ai cortei del 25 aprile a Milano e a Roma, dove hanno sfilato per la prima volta spezzoni di voci ebraiche divergenti dalle versioni filo-israeliane. A Milano, Lea e Mai Indifferenti e a Roma, Jewish Block. Gerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la rassegna stampa di oggi con un articolo pubblicato su La Luce dal titolo Sputo d'odio sul cadavere di un pontefice. La degenerazione sionista italiana arriva fino alla dissacrazione della morte di Bergoglio. Come si evince dal titolo, nell'articolo viene evidenziata la reazione alla morte del Papa dal gruppo Telegram estremista e fanatico Israele Senza Filtri, che conta migliaia di membri ed è amministrato da Dario Sanchez e Michael Sfaradi. I messaggi pubblicati denotano una notevole carica di odio e passano dall'ironia verso l'aspetto fisico del defunto pontefice alla sua empatia verso i palestinesi, arrivando ad evocare l'inferno come sua destinazione. Quello che viene sottolineato è che questi messaggi non possono essere archiviati come provocazioni satiriche, ma devono essere ricondotti ad una propaganda d'odio, diffamazione religiosa, incitamento alla violenza e disumanizzazione. Queste espressioni di odio rappresentano inequivocabilmente il fanatismo israeliano in Europa. Pensate che cosa sarebbe successo se, a parti invertite, quei messaggi fossero stati pubblicati da un gruppo islamico all'indirizzo di un rappresentante ebraico. Le reazioni sarebbero state immediate, con denunce, chiusura del canale e unanimi condanne. E invece a questo gruppo non succede niente. E perché? Si chiede l'autore di questo articolo. Perché l'estremismo sionista ha imparato a travestirsi da legittima difesa, a nascondersi dietro la formula della libertà d'opinione, a fare leva su una retorica vittimistica che sterilizza ogni critica e paralizza ogni reazione. Veniamo all'articolo di Dalia Ismail, dal titolo «Compatti ma cauti, una mozione per salvare le apparenze, non la Palestina», pubblicato su Palestine Chronicle. L'autrice analizza punto per punto la mozione che i partiti di opposizione, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, hanno firmato recentemente sulla Palestina. A partire dal linguaggio usato, l'autrice ci fa capire come siano state volutamente evitati alcuni termini, come ad esempio la parola genocidio. I toni sono infatti molto misurati, attenti a non urtare le sensibilità filo-israeliane, soprattutto all'interno del PD. Il riconoscimento della Palestina in questa mozione appare più simbolico che concreto. Ad esempio, non esplicita l'obbligo da parte di Israele di ritirarsi dai territori occupati e di smantellare l'intero assetto coloniale. Si condiziona poi la creazione dello Stato di Palestina alla sicurezza di Israele e alla fine di ogni forma di terrorismo, non riconoscendo quindi ai palestinesi il diritto alla resistenza nei confronti dell'occupante israeliano, attribuendo quindi implicitamente a loro e solo a loro la qualifica di terroristi. Un'altra ambiguità della mozione riguarda il modo in cui si affronta la questione degli ostaggi israeliani, per i quali si chiede l'immediato rilascio, ma non si fa minimamente menzione degli oltre 9.900 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Fra gli impegni citati dalla mozione vi è il cosiddetto piano arabo per Gaza, che prevede il coinvolgimento di stati esteri per la ricostruzione e la futura amministrazione, delegittimando quindi Hamas come interlocutore e accogliendo l'idea che il popolo palestinese non sia in grado di autogovernarsi. Sembra quindi che questa mozione serva più all'opposizione nostrana per compattarsi politicamente, inserendosi in un clima geopolitico mondiale mutato negli ultimi tempi. Andiamo avanti. Nel pieno della ripresa del genocidio a Gaza avvenuta con la rottura della tregua, arriva ora la notizia che proprio non avremmo voluto sentire, e cioè il rinvio di 6 mesi concesso ad Israele dalla Corte di Giustizia Internazionale per la presentazione della propria contromemoria nel giudizio di fronte alla Corte per genocidio intentato dal Sudafrica. Nell'articolo pubblicato dall'Indipendente si sottolinea come questo rinvio porterà ad esaminare il caso in realtà non prima del 2027, altro che 6 mesi, e questo garantisce ad Israele la possibilità di portare avanti il genocidio con meno controllo, come hanno evidenziato gli stessi media israeliani. Veniamo all'ultimo articolo pubblicato su Middle East Monitor, dal titolo «Gli ebrei antisionisti dell'Austria terranno un congresso in solidarietà con Gaza». L'attivista Dalia Sarig-Fellner ha fatto sapere che dal 13 al 15 giugno si terrà a Vienna il primo congresso ebraico antisionista. La scelta di Vienna è una scelta simbolica perché è la città dove è nato il sionismo, dato che Herzl, il suo fondatore, ha vissuto qui, nonostante fosse nato a Budapest. Oltre all'antisionismo, Sarik Fellner ha detto che l'obiettivo principale del congresso sarà il modo in cui le organizzazioni ebraiche possono sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese. L'evento ha anche lo scopo di far pressioni sui governi occidentali affinché pongano fine alla cooperazione con Israele. L'attivista ci fa sapere che c'è stato anche il tentativo, per niente velato, di impedire che si tenesse questo congresso. Tra i relatori che parteciperanno ci saranno figure di spicco come Ilan Pappé e Salman Abu Sitta. Sicuramente è un evento molto importante da tenere in evidenza nelle nostre agende. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendiamo giù in piazza. Affossiamo il sistema. Ascoltiamo ora il commento di Claudio sul nostro 25 aprile. Buongiorno Palestina su Radio Wombat, sono Claudio e dico qualcosa sulla Palestina nei cortei di questo nostro 25 aprile. E in primo luogo che la Palestina ha avuto ovunque un posto e un'attenzione di primo piano. Alle belle ma evasive parole degli oratori ufficiali hanno fatto da contrappunto i messaggi chiari espressi invece dai cortei e i nugoli di bandiere palestinesi. Presenti poi nelle piazze principali anche voci ebraiche divergenti. Nella manifestazione nazionale a Milano il dissenso ebraico si è espresso con la partecipazione di Lea, laboratorio ebraico antirazzista, e del gruppo Mai Indifferenti, che hanno sfilato per la prima volta in uno spezzone apposito del corteo e con un proprio striscione che recava la scritta «Ebree ed ebrei contro il fascismo in ogni tempo e luogo, no pulizia etnica». A Roma il Jewish Bloc ha sfilato con cartelli con la scritta «Nessuno sarà libero finché non lo saremo tutti. Stop genocide». Questo nella manifestazione a Centocelle, che ha visto scendere in piazza le realtà sociali della Roma antifascista. I cartelli del Jewish Bloc ribadivano la solidarietà al popolo palestinese e la fine del genocidio a Gaza e dei crimini di guerra di Israele. Con un comunicato stampa successivo al corteo di Milano, Lea, laboratorio ebraico antirazzista, si è espresso con un comunicato di cui leggiamo alcune parti. Dice: «Il nostro modo di onorare la memoria dei partigiani di ogni religione, nazione o colore è praticare i valori dell'antifascismo che non possono prescindere dallo schierarsi in solidarietà al popolo di Gaza, massacrato da mesi e mesi contro la disumanizzazione dei palestinesi e con tutti i popoli del mondo che subiscono guerre e oppressioni. Esprimiamo solidarietà alla comunità palestinese di Milano che con successo ha rivendicato il protagonismo della propria lotta guadagnando le prime posizioni nel corteo». Tra i messaggi espressi poi nella giornata da parte di Lea c'è anche quello di responsabilità verso il referendum cittadinanza, cioè un'opportunità per cambiare una legge obsoleta e discriminatoria, andando a votare l'8 e 9 giugno. Queste voci ebraiche divergenti sono state applaudite e diverse da quelle delle rappresentanze ebraiche istituzionali, da cui venivano invece esibiti cartelli chiaramente dettati dalla propaganda israeliana. Le comunità ebraiche ufficiali si fanno infatti rappresentare da UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e nello spezzone UCEI del corteo a Milano vi erano cartelli che portavano la scritta «Resistenza all'uso di scudi umani», con evidente attribuzione di questa pratica ai combattenti palestinesi, quando è noto invece che sono proprio i plotoni israeliani a Gaza quelli che fanno uso sistematico di civili palestinesi come scudi umani. Altri cartelli ripetevano lo slogan che fa da pretesto alla disumanizzazione dei palestinesi e al genocidio a Gaza, e cioè la scritta «Resistenza agli abusi sulle donne», questi ancora attribuiti ad Hamas naturalmente. Ora, la propaganda israeliana insiste ancora su questo punto, quando a 15 mesi dal 7 ottobre nessuna vittima di stupro da parte di Hamas risulta reperibile in Israele e la procuratrice israeliana, certa Moran Gratz, confermando che non sono state presentate accuse di stupro o aggressione sessuale contro Hamas per i fatti del 7 ottobre, ha sospeso il procedimento e ha consigliato, a questo punto abbasserei le aspettative, il che sarebbe come dire, oh, le avevamo sparate un po' troppo grosse. Sono invece le scritte antifasciste che non appaiono nello spezzone UCEI di Milano. A Roma invece viene data la grande enfasi alla Brigata Ebraica preceduta dallo striscione «Antifascisti sempre». Si tratta di una scritta di cui può essere legittimo mettere in dubbio la sincerità, considerato che la comunità ebraica romana ci ha messo un bel po' a prendere le distanze dalla Brigata Sionista Vitali, che è un gruppo che ha come compito, che ha compiuto devastazioni in scuole della capitale ed il cui logo rappresenta un teschio in campo nero. Ricorda qualcosa? Conviene anche ricordare che sempre a Roma si sono verificati episodi in stile squadrista violento contro personaggi noti come sostenitori della causa palestinese, pestaggi sui quali le indagini della Digos procedono a rilento. Ho finito, ripasso la linea. Grazie. Yerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami. E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ascoltiamo ora l'arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, intervenuto a un evento sulla pace in una piazza a Bari il 30 marzo. È dal 1947 che la striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto, e dal 7 di ottobre del 2023 sono diventate un campo di sterminio a cielo aperto, con il silenzio del mondo e con il silenzio dell'Europa. Quello che mi ha sempre fatto effetto e che dietro questo campo di concentramento e di sterminio ci sia quel popolo che di campo di concentramento e sterminio è stato succube fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E dobbiamo liberare, credo, insieme alla Palestina, anche lo Stato di Israele da una situazione e da una gestione che è contraria alla sua stessa natura, visto che sa benissimo che cos'è stato e che cos'è la Shoah e il genocidio. Quello che stiamo osservando e vivendo nel silenzio di tutti, e non possiamo più stare zitti, è che stiamo assistendo ad un autentico crimine di genocidio mondiale. E se si risolve la situazione in Palestina, si risolve veramente quello che è il cammino verso la pace in tutto il mondo, perché è lì dove nasce l'odio, e l'odio si fomenta per interesse ovviamente di chi le armi le produce. La seconda cosa è che questa Europa a cui sono stato sempre legato, io prima di fare il vescovo giravo il mondo per motivi di missione, mi chiedevano di dove sei, io dicevo, non dicevo italiano o piemontese, dicevo europeo, dopo l'ultimo atto del Parlamento europeo del ritorno al riarmo in questo modo, mi vergogno di essere europeo. Bravo! Mi vergogno. Non riesco più a dirmi europeo se l'Europa è questa, non è l'Europa dei padri, non è l'Europa del Trattato di Roma del 1957, 25 marzo, che tra poco che abbiamo appena celebrato. Non era l'Europa per il riarmo e per la guerra, era l'Europa per la pace. E poi quando ho visto il kit per la guerra, ma diamo i numeri, questa è una buffonata e nello stesso tempo è una presa in giro della ragione. Bravo! Un kit per 3 giorni, ma dopo 3 giorni la guerra non c'è più. Basta quel kit lì per risolvere i problemi di guerra? E un piccolo ricordo. Qualche anno fa questa Europa ha messo a ferro e fuoco e sangue la Grecia per pochi miliardi di euro che avrebbe potuto condonare, e adesso mi dice che ha 800 miliardi per gli armamenti? Non è una contraddizione? Non è un'illogicità? Non è un mettersi contro i popoli che fanno l'Europa? Bravo! Yerusalema, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishi. E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ascoltiamo ora la ministra degli esteri palestinese Vazen Shahid, intervistata dalla radio televisione svizzera dopo la morte di Papa Francesco. Per la pace nella striscia di Gaza sembra essere caduto definitivamente nel vuoto. Anche oggi ci sono stati diversi morti. A questo punto, secondo la ministra degli esteri palestinese, Hamas dovrebbe liberare tutti gli ostaggi israeliani. L'ha incontrata a Roma Emiliano Boss. Per noi palestinesi soprattutto, il Papa era un grande sostenitore dell'umanità e un grande sostenitore degli oppressi. Ha parlato molto dei diritti dei palestinesi, dei nostri diritti e della necessità di costruire la pace in Medio Oriente. Per noi quindi Papa Francesco è una persona che ricorderemo e che tramanderemo ai nostri figli. Davanti al mondo riunito in piazza San Pietro per il funerale di Papa Francesco è risuonato di nuovo il suo instancabile appello alla pace, che però, almeno in Medio Oriente, sembra inascoltato. Il suo appello è rimasto inascoltato, così come l'appello del mondo intero. Se non si fa nulla e tutto prosegue con l'impunità che stiamo vedendo, altri civili saranno uccisi. Questo è uno spreco così grande. Ogni giorno assistiamo a massacri del popolo palestinese e nient'altro che all'uccisione di altri civili. Per ora non si trova l'accordo per porre fine a questa guerra. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha chiesto ad Hamas di rilasciare gli ostaggi israeliani a Gaza. Perché? Trattenere gli ostaggi significa uccidere altri civili palestinesi. Per questo il presidente Abbas ha chiesto che gli ostaggi israeliani vengano riportati a casa in modo da fermare questa guerra genocida. Lei sta dicendo che Hamas non si prende cura dei palestinesi e anzi nuoce alla causa? Il presidente Abbas vuole preservare la vita dei palestinesi. Credo che la ragione debba prevalere. La richiesta è che Hamas fermi davvero la guerra. E se Hamas restituisse gli ostaggi, forse, questa guerra potrebbe fermarsi. Ma il problema è Israele, perché la guerra di Israele non è solo contro Hamas, è contro l'intera Palestina e la sua popolazione. Quello che vediamo in Cisgiordania, parallelamente a quello che succede a Gaza, è davvero eloquente. Ed è molto chiaro che gli israeliani stiano prendendo di mira i palestinesi e la Palestina nella loro totalità. A poche file dalla vostra delegazione, in piazza San Pietro, c'era Donald Trump, che ha proposto di svuotare la striscia di Gaza dei suoi abitanti. We've said it very clearly. No to displacement, President. L'abbiamo detto molto chiaramente, no allo sfollamento dei palestinesi. L'ha detto il presidente Abbas, la leadership, i paesi arabi, il mondo l'ha detto. Se il presidente Trump vuole fare la pace, deve pensare a parametri di una vera pace, cioè prendersi cura dei diritti di tutti nella regione, compresi i palestinesi. Speriamo quindi che il messaggio di Papa Francesco possa continuare a farsi sentire e dia una spinta per forgiare la pace a cui aspiriamo. In the direction of forging the peace that we aspire to. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Ascoltiamo ora Francesca Albanese, intervistata da Roberto Iacona. Francesca Albanese è una giurista e docente italiana specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Dal 2022 Francesca è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. E l'infrastruttura civile è stata distrutta, dagli ospedali alle università, alle scuole, le strade, la rete fognaria, la rete elettrica, i campi agricoli. Sono state ammazzate quasi 60.000 persone, 18.000 bambini e 10 volte tanto sono i numeri di quelli feriti, e molti dei quali menomati a vita. Israele ha l'esercito, uno degli eserciti più potenti al mondo, l'esercito più potente del Medio Oriente. Con chi sta facendo quella che chiamiamo acriticamente guerra contro la popolazione di Gaza? Non c'entra molto Hamas e non c'entra la liberazione degli ostaggi, come ormai i politici israeliani lo dicono liberamente. Quindi perché Israele sta commettendo gli atti che commette, che sono genocidari ai sensi della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio? Sta commettendo atti di uccisione, creazione di condizioni di vita volte a distruggere, atti, inflizione di sofferenze fisiche e psichiche, soddisfacendo il requisito del crimine di genocidio, con l'intento di distruggere. Da dove si vede? È invisibile per quel gruppo umano la il genocidio situazione. Si distingue dalla vittima, entra nel mirino il gruppo in quanto tale, e qui si vede che sono i palestinesi in quanto tali che vengono colpiti. E l'obiezione degli israeliani, che dicono: noi siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci contro Hamas sta nella città in mezzo alla gente, non c'è altra strada per ottenere il risultato che vogliamo ottenere, cioè la sicurezza di Israele. Allora, se questo argomento fosse valido, cioè che se la legge del taglione fosse permessa, questo paradossalmente giustificherebbe quello che Hamas ha fatto, perché dal 2007 ad oggi Gaza, soltanto questa parte del territorio palestinese occupato, ha sofferto 5 guerre che avevano ucciso 5.000 persone, tra cui 1.200 bambini. Non è così, anche è chiaro che Israele è stato colpito al cuore il 7 ottobre, ma questo non gli dava la legittimità di scaricare una guerra una guerra così distruttiva nei confronti della popolazione civile di Gaza. E poi adesso, all'indomani, qui non siamo più all'indomani del 7 ottobre, sono passati 550 giorni, da 50 giorni non entra più acqua, medicine, cibo a Gaza. Andiamo a pochissimo perché ci sono notizie drammatiche delle ultime ore, degli ultimi giorni che stanno arrivando da Gaza. Adesso io devo dare pochissimi minuti di pubblicità, ma subito dopo ripartiamo, riparte il nostro racconto e avrà per oggetto proprio i bambini di Gaza, i bambini. Siamo a Firenze, andiamo a conoscere Ibrahim, uno dei bambini di Gaza arrivati in Italia per curare le ferite provocate da un bombardamento israeliano. Ci accompagna Sausan, volontaria dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese. Ma dice che c'è ancora paura di qualsiasi cosa, qualsiasi rumore, anche un piatto che cade. Accompagniamo Ibrahim. Il giorno del bombardamento in cui è morta mia figlia Rawan, ero sfollata in un campo di profughi a Rafah. Il secondo giorno che eravamo a Rafah è arrivato mio fratello e gli ho chiesto: che succede? Ha iniziato a piangere. Poi mi ha detto: Rawan è stata uccisa ieri. Oddio, sono morti in 17, tutta la famiglia di mio cognato. I bambini erano ustionati, completamente bruciati. Ci hanno portato all'ospedale di Al-Aqsa e li ho visti in quello stato. Feriti, morti, stesi a terra. Ibrahim, suo fratello e due dei suoi cugini erano tutti lì, per terra. Per via del sovraffollamento ci hanno trasferiti a Rafah. Hanno operato Ibrahim alla gamba, dove aveva una ferita profonda. Un buco bianco ben visibile e gli hanno tolto le schegge dalla testa. Dopo 20 giorni mi hanno detto che doveva andare all'estero per un intervento al nervo. All'ospedale Meyer conosciamo anche Tala e sua zia. Tala ha 15 anni ed è stata gravemente ustionata ai piedi durante un bombardamento. Eravamo a Deir al-Balah, ci siamo accampati lì di notte con le donne e i bambini. Poi all'improvviso una fiamma è esplosa vicino ai bambini, bruciandoli. Sua zia è stata bruciata dalle gambe fino alla testa, aveva 22 anni. Cosa ricordi di quel momento? All'improvviso sono arrivati i razzi. Mi ricordo che 3 volte il fuoco ci ha colpiti, è salito e sceso. Pictures and keys goodbye. Hot child cries, hot child dies. He won't know in any sky. You pull your trigger, wait out a while. You took your picture and keys goodbye. Hot child cries. And kiss goodbye. A Gaza, di questi 107 bambini che sono arrivati in Italia, poi se ne è occupato il terzo settore da noi, e cioè Sant'Egidio, Caritas, Federazione Chiese Evangeliche e Arci, ma senza dubbio i bambini sono le prime vittime a Gaza. Pensate che da quando sono ripresi i bombardamenti dopo il 18 marzo già sono stati uccisi 600 bambini e 1600 sono feriti. Lei ricordava quanti sono i minori che sono stati uccisi da quando si è cominciato i bombardamenti a Gaza? Morti da trauma, cioè da bombe, fuoco israeliano, quasi 18.000. Dobbiamo calcolare che poi ci sono delle morti successive. Assolutamente. C'è persone con infezioni che non si possono curare. Morti da fame, morti da assideramento, morti da infezioni. E quindi non entrano nei conteggi? A meno che non siano stati portati in ospedale, no. Poi ci sono gli orfani. Sì, subito dopo l'inizio del cessate il fuoco, l'informazione che fu diffusa dalle organizzazioni non governative delle Nazioni Unite in base ai loro, insomma, ai loro controlli sul campo, era che il 40% della popolazione adulta che stava rientrando al nord portava con sé bambini non propri. perché sono state sterminate 1500 famiglie, cioè tra le 4 e le 5 generazioni sono state cancellate dalla faccia della terra. Questo dei bambini è un punto importante dei suoi report, che lei ripete continuamente, perché? Perché i bambini di oggi sono gli adulti di domani, e perché un trauma del genere va assolutamente curato, e sono d'accordo col dottore, va curato sul posto. Perché ci sono i medici di emergency? Perché il settore sanitario è stato completamente decimato, sono stati ammazzati, presi di mira migliaia di medici e altro personale mentre sanitario. Lei parla, il nostro regista Massimo Di Nicola, Max Di Nicola, ci fa vedere una cartella che abbiamo preparato su questo, continui pure. Sono state completamente distrutte le strutture sanitarie, le immagini che vedete sono alcune di quelle, ma ci sono ospedali che sono stati interamente rasi al suolo, persino la clinica di fertilità che conservava 4.000 embrioni. Nel senso, non c'è nessuna guerra che sia stata così distruttrice, e infatti questo è quello che io sollevavo come argomento già nel marzo del 2024. Israele ha trasformato le situazioni di conflitto in zone senza civili, in cui tutti possono diventare un obiettivo e tutto è distruggibile, ed è successo tutto dopo. È distrutto anche. Infatti molto tutto è distrutto. Tutto è distrutto. A Gaza, quello che mi ha colpito del documentario che avete realizzato è che da una parte si vede la natura vera dei palestinesi di Gaza, che sono molto particolari perché hanno una fame di vita che io non ho visto da nessun'altra parte, ma come faranno a vivere in quello scempio? Sì. Dal sud partono i milioni per andare al nord, contenti che si possono finalmente tornare a Gaza Nord, e Gaza Nord è totalmente distrutta. Notizia di 3 giorni fa, a Gaza manca addirittura il pane, manca la farina, e l'allarme è stato lanciato dal Programma Alimentare Mondiale, sempre delle Nazioni Unite. I dati sulle strutture sanitarie distrutte ve li abbiamo fatti anche vedere. Allora, c'è un punto con cui vorrei chiudere questo nostro incontro, è la soluzione del conflitto, no? O meglio ancora, che cosa dobbiamo fare, che cosa non fa l'Occidente perché questa strage termini, e termini anche le deportazioni di massa di questo popolo? Secondo me è molto importante capire perché c'è questo conflitto. Io l'ho denunciato sin dall'inizio, perché conosco la storia della Palestina e di Israele, e ho detto in occasioni quando c'è la possibilità di una guerra, Israele avanza la pulizia etnica di quello che resta della Palestina, distruggendo tutto e ammazzando quanti più palestinesi possibile. È successo nel 48, è successo nel 67 e succede e anche si oggi. Si acquisisce territorio. Sì, ma questo sta avvenendo contro il diritto internazionale. Ma l'Occidente che cosa sta facendo, cosa non sta facendo? Quali sono le nostre responsabilità? Si dice spesso che l'Occidente è indifferente e non fa nulla. Secondo me non è così, perché l'Occidente sta dando man forte, continua a trasferire armi ad Israele, incluso il nostro paese, e a mantenere accordi. Si sta per rinnovarsi l'accordo di partenariato tra l'Italia e Israele, continua a mantenere relazioni come se nulla fosse, quando in realtà l'obbligo di tutti, incluso l'Italia, è quella di non riconoscere, non aiutare, non assistere un paese che commette violazioni come quella che la Corte di Giustizia delle Nazioni Unite ha riconosciuto essere un'occupazione illegale finalizzata all'acquisizione di terra, sfollando o mantenendo il regime d'apartheid i suoi abitanti. Grazie Francesca Albanese, grazie per essere stata voi. Con noi, veramente. Mi piace pensare veramente in questo momento a Papa Francesco, perché alle tante parole che ha speso per il cessate il fuoco nel mondo intero, alle ultime fortissime che ha scritto quando ha fatto l'Angelus prima di morire la domenica, in cui affermava che la situazione umanitaria a Gaza era drammatica e ignobile, così l'ha definita. Para todo el mundo. Yo me lo tengo, patria. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla seconda parte della nostra trasmissione con Lorenzo Camel, intervistato da Sergio Zanchini a Quante Storie il 30 marzo. Lorenzo Camel è professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. Ascoltiamo l'intervista al professor Camel. Cominciamo però, come facciamo sovente il lunedì, e soprattutto con il professor Camel, che si pronuncia anche, insomma, è capitato a me di intervistarla alla radio, su quello che accade nell'attualità, in queste ore, in questi giorni, in Medio Oriente, da un ritaglio di un articolo di oggi del Corriere della Sera. Netanyahu, il piano americano è il nostro e sfida l'AIA con la missione d'Orban, va in Ungheria, ma già Orban ha detto che comunque non adempierà al mandato internazionale. Ma il piano americano, le faccio due domande, professore. Questa è una frase che già conoscevamo, cioè è scontato che lui dica così, e secondo, è un piano nato morto? Innanzitutto non c'è stata una grande discontinuità fra l'amministrazione Biden e quella Trump su tantissimi temi legati al conflitto. Però la normalizzazione di questa idea dell'espulsione di massa dei palestinesi è, diciamo, il punto centrale che rappresenta appunto un cambio di passo, e dare luce verde, quindi sdoganare questa idea, per un governo che è così posto a destra in Israele in questa fase storica, ovviamente rappresenta un importante punto di rottura. Ricordiamo però che questo è un piano che c'era già da tempo, ci erano già stati piani, piano Eiland e altri piani nei precedenti decenni, che miravano a far diminuire, diciamo, la popolazione nella striscia di Gaza. Voglio ricordare che nella striscia di Gaza il punto, il grande cambiamento da un punto di demografico avviene nell'ottobre del 1948 con l'operazione Yoav, quando nell'arco di poche ore la popolazione dei rifugiati palestinesi lì passò da 100.000 a 230.000 unità. Al tempo Michael Gallant, che era il padre dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant, partecipò in quell'operazione e chiamò suo figlio Yoav proprio per celebrare quell'operazione. L'operazione, come dice, ha cambiato più di qualsiasi altra, cioè quello all'equilibrio demografico in loco, e da là, da quel momento storico in poi, ci sono state diverse iniziative che andavano in quella direzione. Con questa amministrazione ovviamente vediamo un cambio di passo. Nato morto, però il mondo arabo non lo vuole. Guardi, innanzitutto il mondo arabo è un'espressione molto ampia, nel senso, quando diciamo mondo arabo è un po' come dire il mondo anglosassone, nel senso dire dalla Nuova Zelanda al Sudafrica, all'Inghilterra, gli angli. È un mondo enorme, poi spesso parliamo di regimi che sono totalmente dipendenti dagli Stati Uniti, parliamo del regime di Assisi, parliamo del regime in Giordania, sono regimi che rappresentano poco più di loro stessi, non hanno nessuna presa sulla popolazione locale, ma che appunto devono fornire delle risposte in questo senso. Delle risposte che vedremo in quale direzione andranno. Certo, loro hanno paura, per esempio Assisi ha paura che il Sinai si possa trasformare in una nuova striscia di Gaza, in cui appunto a quel punto le autorità israeliane vorranno forse intervenire anche nel Sinai per scongiurare qualcosa di simile che è avvenuto negli ultimi anni con lanci di razzi e via dicendo. Nel frattempo a Gaza è ricominciata la guerra, nei giorni scorsi ci sono stati nuovi bombardamenti, questa è un'altra delle notizie sulla quale volevamo riflettere con il professor Camel, cioè il bombardamento di un'ambulanza, trovati 14 corpi dopo spari su ambulanze, diciamo, qui in Occidente, qui in Europa. Lo so che sono categorie molto generiche, professore, però le prenda con beneficio inventario. Allora, si prova una duplice sensazione: da un lato l'impotenza, dall'altro anche effettivamente il senso di inermità, cioè gli europei non stanno facendo nulla rispetto all'Ucraina, faccio un esempio. Sì, guardi, gli europei in realtà stanno facendo moltissimo. Se pensiamo al ruolo che hanno avuto in questi ultimi anni, la Germania fornisce il 30% delle armi che vengono utilizzate per quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza. Ancora? Sì, continua a fornirle, e insomma dopo gli Stati Uniti c'è la Germania, quindi ha un ruolo strutturale in questo conflitto, è un ruolo molto visibile, insomma, a chiunque lo voglia vedere. Certamente quando parliamo di queste questioni dell'ambulanza è una questione importante, ma il quadro più ampio è ancora più sorprendente. The Lancet ha pubblicato recentemente uno studio in cui ci dice che l'aspettativa di vita nella striscia di Gaza è passata da 75 anni a 40, l'aspettativa più bassa a livello globale, quindi parliamo di un momento storico in cui questa catastrofe epocale certamente sta lasciando dei segni che rimarranno nei prossimi decenni. Altro tema legato all'attualità è un'intervista che vi vogliamo mostrare all'ex premier Olmert, tra l'altro uno dei piani che, ora semplifico, il professor Camel in qualche modo smonta, nel senso che non era questa offerta così generosa nei confronti del mondo palestinese, ma che noi qui in Europa abbiamo letto invece come la più generosa delle offerte. Ma sentiamo le parole durissime di Olmert nei confronti di Netanyahu. Sono gli ultimi giorni della democrazia, gridano i manifestanti davanti alla residenza del premier. What is going on in Israel? Che succede in Israele? Il governo Netanyahu ha dichiarato guerra al popolo di Israele. Il 7 ottobre 2023 è stato uno shock, frutto dell'arroganza e della negligenza che hanno portato al massacro di centinaia di persone. E ora questo tentativo del premier e dei suoi sostenitori di trasformare Israele in un paese non democratico. A Gaza, intanto, le vittime sono 50.000. E se continueremo, perderemo gli ostaggi e uccideremo molti innocenti palestinesi che non possono essere vittime di tutto questo. Professor Kamel, la società israeliana è effettivamente lacerata? Sì, è una società traumatizzata, come la società anche palestinese. Entrambe le società sono consapevoli che entrambe le leadership hanno fallito clamorosamente, portando questi popoli a vivere una sorta di vicolo cieco. Ora, una delle poche insegnamenti che ho imparato nella vita è il fatto che nell'eterna lotta fra il bene e il male sovente a vincere la lotta, e la lotta nelle tematiche che ci stiamo occupando oggi credo che sia quella di cercare delle isole di sanità mentale, così l'ho chiamata nel 2011, un libro che si chiama L'Alternativa, in cui sono per 5 anni andato a cercare delle iniziative dal basso che potessero fornire gli strumenti per trovare un messaggio ponte fra questi due popoli e scalfire quei muri mentali che erano molto visibili, che sono visibili ancora oggi. Tra tanti esempi c'era per esempio il caso di un palestinese che aveva creato un museo dell'olocausto a Naalin, un piccolo villaggio in Cisgiordania, spesso oggetto dei raid dell'esercito israeliano. Museo è una parola grande, era una grande stanza che diceva bisogna passare attraverso la sofferenza e i traumi degli altri per capire le nostre. Dalla parte israeliana, tra tantissime altre iniziative, perché ne erano molte altre, c'era Zokrot, che vuol dire ricordando in ebraico, porta gli ebrei israeliani a vedere i villaggi palestinesi distrutti e depopolati del 1948. C'erano tantissime altre iniziative, e alcune anche con diversi punti di debolezza, cioè non dobbiamo abbracciarle in toto, però in ultima analisi credo che tutte le iniziative che vanno in quella direzione di capire le trauma dell'altro siano in ultima analisi quei semetti che germoglieranno nel momento opportuno. Scusi professore, ma a suo avviso Israele si sta trasformando in una, diciamo, struttura istituzionalmente non democratica? Qua, ripetuto, diciamo che già dalla seconda intifada la società israeliana in larga parte ha provato a insularsi dall'occupazione del territorio palestinese, e infatti ricorderà nelle grandissime manifestazioni contro la riforma della giustizia Netanyahu, l'elefante nella stanza non era presente, non si parlava ovviamente dell'occupazione dei territori palestinesi. Dunque oggi lei mi dice che la situazione certamente è andata ancora più in quella direzione lì, e certamente ritengo che per valutare la tenuta democratica di un paese, non, oltre ai problemi che ci sono all'interno di Israele, anche bisogna vedere quella che è la situazione a pochi passi di distanza, perché se ci sono milioni di persone, unico caso a livello mondiale in cui ci sono milioni di persone che sono soggetti a tribunali militari da oltre 50 anni e sono soggetti a una potenza occupante e vivono per quei tribunali, sono in questi tribunali militari con un tasso di condanna pari al 99,74%, quindi la quasi certezza della pena, mentre dall'altra parte, stando a dati di Yesh Din, questa organizzazione israeliana, sappiamo che la probabilità che una denuncia per danni arrecati a un palestinese da parte di un soldato israeliano finisca con una condanna è pari allo 0,87%. Quindi da una parte la quasi certezza della pena, dall'altra parte la quasi certezza di rimanere impuniti. Non a caso poi quando ascolteremo l'intervista al professor Baltalver hanno detto delle cose abbastanza in linea con quanto ha detto adesso il professor Kamel. Nei giorni scorsi nella striscia si sono viste delle manifestazioni contro Hamas. Rivediamola e ci riflettiamo sopra con il professore. Gridano fuori. Alcuni di voi avranno visto sui giornali oggi la notizia che adesso ci vediamo assieme, tratta da uno dei tanti quotidiani che ci si soffermano, e cioè la morte di uno dei manifestanti torturato e ucciso da Hamas. Ora poi non so esattamente quale fonte e quale prova abbiamo di questa uccisione, ma probabilmente, avendone scritto il giornale, è confermato. Tra poco noi vedremo un servizio, professore, su Hamas e le sue origini. Lei dedica una delle risposte a questo tema. Ma la protesta a Gaza ci dice qualche cosa? Guardi, innanzitutto ricordiamoci che il 51% della popolazione a Gaza ha meno di 18 anni, quindi non era neanche nata nel 2006 quando Hamas si è imposto con il 45% dei voti in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. E dobbiamo anche ricordarci allo stesso tempo che, stando a un sondaggio di Arab Barometer, quindi l'Università di Princeton, che è stato fatto una settimana prima dell'attentato del 7 ottobre, il tasso di supporto nella striscia di Gaza fuori Hamas era solo al 29%. Erano molto critici i palestinesi, si esprimevano in larga parte anche per l'autodeterminazione di entrambi i popoli, quello sto dicendo facilmente riscontrabile online, basta trovare Arab Barometer Università di Princeton e si trova questo sondaggio. Dunque, in questo senso non è certamente una novità né una sorpresa per chi conosce la realtà locale. Il fatto è che quello che sanno i palestinesi, sanno benissimo anche i lati oscuri e problematici Hamas, ma sanno benissimo che Hamas in qualche maniera è un sintomo di qualcosa di molto più ampio. Prima citavo questa questione dei profughi da 100.000 a 230.000, i tre principali fondatori Hamas, Hayassin, Al-Yazouri, Arantisi, erano bambini tra 2 e gli 11 anni quando vennero espulsi nel 48 da villaggi che sono nell'odierno Israele, Al-Jura e Ibne, che sono stati poi rasi al suolo. Sono arrivati a quell'età, parte della loro famiglia venne massacrata al tempo, ma parte arrivò nella striscia di Gaza, l'area di Al-Shati, l'area costiera e Khan Yunis. Questo ci ricorda una volta di più che non è un modo innanzi minimamente per ridimensionare dei crimini efferati come quelli di cui si è macchiato Hamas, e con questo dobbiamo essere molto molto chiari. Allo stesso tempo, se non si conosce il retroterra storico, se non si conoscono le radici di queste questioni, è molto facile fornire narrazioni che parlano alla pancia, dunque agli istinti delle persone, e in ultima analisi non aiuteremo questi due popoli a trovare quel messaggio ponte che dicevo prima. Chiunque si occupi di queste questioni e ci tenga veramente, da giornalisti, storici e via dicendo, deve puntare a quello. ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري خذني إلى فراش نومي خذني إلى صحن داري Dal professor Kamel come fu possibile il 7 ottobre con i servizi segreti israeliani tra i migliori del mondo. Questa è una domanda che aleggerà per secoli. Sì, tra tanti altri aspetti dobbiamo ricordare che larga parte dell'esercito israeliano era dislocato a protezione di insediamenti in Cisgiordania, quindi larga parte, cioè quella zona era molto scoperta. Io non voglio credere, finché non ho delle prove oggettive, a nessuna conspiracy theory, come spesso sono girato in questo momento. Io sono uno storico, mi baso sulle fonti e fino adesso appunto non credo, non ho elementi per dare valore a queste teorie complottiste che ho sentito, che abbiano lasciato fare questo. Quello che so per certo è che Netanyahu molte volte ha spiegato che era importante rafforzare Hamas perché non c'era, così si mostrava che non c'era nessun interlocutore, prima del 7 ottobre ovviamente, quindi mostrando che Hamas, una forza oltranzista, fosse lì al potere, si dimostrava che non c'era nessuno con cui parlare. In ebraico si dice ledaber sham, cioè non c'è nessuno con cui parlare lì, non abbiamo nessun interlocutore. Non avendo nessun interlocutore, in questo senso possiamo evitare di dare concessioni. Già ha sfiorato la risposta il professor Camela alla domanda che lui si pone, domanda 30, quali sono le origini di Hamas? Guardiamo queste immagini. Cappellini verdi o Kalashnikov, doppio petto o bandane da guerriglia, Hamas e le sue contraddizioni, il movimento nato nell'87 con la prima intifada, filiazione del gruppo dei fratelli musulmani in Egitto, si è sempre mosso agendo su due fronti. Da una parte... Ha capito professore, questo è un servizio che ha qualche anno, il punto è... sulla grande stampa, ma insomma in qualsiasi dibattito, anche nelle conversazioni della sera a casa, viene sempre detto Israele non può sopportare l'esistenza stessa di Hamas, un vicino che mira la sua distruzione, e quindi siamo in una specie di comma 22, cioè è impossibile uscirne. C'era un famosissimo generale israeliano, Moshe Dayan, che disse che se vuoi fare la pace parli con i tuoi nemici, non con i tuoi amici. Menachem Begin, che era capo dell'Irgun, la forza paramilitare sionista, Yitzhak Shamir, capo della banda Stern, e altre figure si sono macchiate di crimini orrendi nei riguardi dei civili palestinesi e poi sono diventati primi ministri dello Stato di Israele. Ancora oggi, dalla prospettiva dei palestinesi, questo governo rappresenta un governo che con una violenza strutturale impedisce la loro autodeterminazione, e il primo ministro di Israele è stato emesso un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Questo per dire che torniamo alle parole di Moshe Dayan: se vuoi fare la pace parli con i tuoi nemici e non con i tuoi amici, perché purtroppo sappiamo bene che i nemici non si possono scegliere. Sì, però Hamas cosa chiede? Guarda, innanzitutto io non voglio entrare in quello che dice e chiede Hamas, quello che posso dire è che questo accordo che c'è stato pochi giorni, qualche settimana fa, era chiaramente per due fasi. La seconda chiedeva la seconda fase prevedeva il fatto di lasciare la striscia di Gaza in cambio del rilascio di tutti gli ultimi ostaggi israeliani che sono in mano di Hamas. Non era previsto che ci fosse, diciamo, una continuazione sine die di questa prima fase. Quindi dalla prospettiva di Hamas credo che, sapendo che sono fortemente indeboliti, una forza che ovviamente ha sia per il scontento generale palestinese in generale nella striscia di Gaza, ma in generale sapendo che a livello militare sono, insomma, quasi liquefatti rispetto a quello che era la situazione prima, vogliono, si accontentano tra virgolette di la distruzione che hanno lì, ma di non avere più le forze israeliane nella striscia di Gaza e di lasciare gli ultimi ostaggi israeliani in loro mano. Portarsi all'attentato perpetrato contro Israele il 7 ottobre e al successivo smembramento di Gaza. Lei ha usato prima un'espressione purtroppo realistica, cioè un duplice trauma. Assolutamente, sappiamo che questo è un crimine che rimarrà indelebile, quello compiuto da Hamas il 7 ottobre, ed è qualcosa appunto che deve essere rimarcato in maniera molto chiara e molto netta. Allo stesso tempo dobbiamo sapere che se per parlare dell'apocalisse che sta avvenendo nella striscia di Gaza dobbiamo sempre necessariamente parlare del 7 ottobre, ne consegue che per parlare del 7 ottobre dobbiamo parlare anche di quello che è avvenuto nei decenni precedenti. Per esempio, fra tanto altro, stando a dati delle Nazioni Unite, sappiamo che tra il 2008 e una settimana prima dell'attentato di Hamas sono stati uccisi 6.407 palestinesi e 308 israeliani, in larga parte parliamo in entrambi i casi di civili. Ad esempio dobbiamo parlare del fatto che, stando all'UNICEF, tra gennaio e settembre del 2023, dunque un mese prima dell'attentato di Hamas, il numero di bambini palestinesi uccisi nella Cisgiordania era il più alto in assoluto di quelli registrati dall'UNICEF, almeno fino a quel momento. Questo per dire che appunto dobbiamo essere, in ultima analisi, sempre lì per ricordarci che i traumi di questi due popoli devono essere al centro della scena e non usare selettivamente i traumi degli uni o degli altri, perché sennò a quel momento diventiamo semplicemente dei tifosi e non delle persone che vogliono capire. Alice. Allora, Federica chiede, vorrei chiedere al professore qual è secondo lui il ruolo del diritto internazionale nella soluzione della questione palestinese. Disperato. Il diritto internazionale ovviamente ha un ruolo, anche se fino ad oggi è comunque stato piegato dalle esigenze, dalla volontà di alcuni paesi. Abbiamo visto adesso con la Corte Penale Internazionale le decisioni che sono state prese, ed è stata detta quella famosa frase che questa Corte Penale è stata fatta per degli autocrati e dei criminali che sono nostri nemici, non nostri amici. Però finché appunto verrà utilizzato in quella maniera il diritto internazionale, verrà utilizzato prendendo gli aspetti e non altri aspetti, e allora a quel punto il diritto internazionale rimane zoppo e non può avere il suo ruolo. Abbiamo citato poco fa l'intervista che Alessandra Ferrari ha fatto a un intellettuale israeliano durissimo nei confronti del proprio paese e della propria storia, Bartal, risentiamolo. Israel was never democratic. Israele non è mai stato democratico. Fin dall'inizio, nel 1948, era un paese completamente autocratico. Poi, nel 1967, Israele ha occupato i territori palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Del vero, professore Bartal vive e insegna in Israele, quindi diciamo lui può esprimere queste idee. Sì, io sono stato diversi anni all'Università del Bracadero Gerusalemme e conosco molto bene questo approccio coraggioso. Questo ci ricorda una volta di più, come dico spesso ai miei studenti, che nella vita di tutti i giorni ci innamoriamo dei nostri partner, dei nostri figli e via dicendo, ma quando ci occupiamo di questi temi ci dobbiamo innamorare dei principi, perché le persone in ultima analisi deludono spesso, come sappiamo, ma i principi, se sono solidi, se sono forti, restano lì. Queste parole critiche, con le quali possiamo essere più o meno in accordo, ci ricordano appunto queste importanti voci che sono lì. Da un punto di vista più specifico, alcuni critici interno all'Israele sostengono che lo Stato, dalla loro prospettiva, sia democratico per quanto riguarda la componente ebraica locale e sia invece uno Stato ebraico per quanto riguarda i palestinesi. Dunque tendono a dire che dalla loro prospettiva ci sono una serie di discriminazioni più o meno velate, ad esempio che poi se non servi nell'esercito hai molto più difficoltà a ottenere una serie di cose, ci sono una serie di strumenti per creare insomma una situazione di sperequazione, però è chiaro che dentro Israele ci sono una serie di diritti che vanno posti in risalto per la componente palestinese, non arabi ma palestinesi, perché una cittadinanza non cancella un'identità, sono palestinesi che vivono in Israele. E per quanto riguarda invece la situazione nei territori occupato palestinese, questa situazione è molto diversa. Dunque in Israele ci sono degli importanti diritti e sono stati raggiunti e vanno rimarcati nonostante alcune discriminazioni, ma sono importante anche da un'ottica regionale. Invece quando andiamo al di là, quando vediamo la situazione in Cisgiordania, vediamo una sorta di unicum, come dicevo prima, l'unico caso al mondo in cui da oltre mezzo secolo ci sono milioni di persone che sono sprovvisti sia di uno Stato e di una cittadinanza di un qualsiasi altro Stato. Pensiamo ai curdi o pensiamo in Cecenia, situazione drammatica, difficile, ma hanno una cittadinanza in un paese. I palestinesi vivono invece in un limbo giuridico da oltre mezzo secolo. Peraltro anche lì una democrazia può anche essere occupante, io pensavo alla Gran Bretagna del secondo dopoguerra, perché c'è ancora le colonie, alcune colonie, è difficile rispondere. Sì, però appunto se porti in una situazione in cui ci sono milioni di persone che dipendono da te, soprattutto a un metro di distanza, in quel senso non puoi essere al 100% sicuro che il tuo approccio sia democratico, nel senso che chiaramente queste persone dipendono in tutto e per tutto. E soprattutto faccio l'ultimissimo esempio: in Cisgiordania sappiamo che è l'unico luogo a livello mondiale in cui esiste un tribunale militare giovanile. Io la sfido a chiedere a tutti gli interlocutori che parlerà nei prossimi anni se possono indicare un altro luogo al mondo in cui esiste un tribunale militare giovanile per ragazzi dai 13 ai 15 anni d'età. Dunque se esiste un tribunale che è gestito ovviamente dalle autorità israeliane, se esiste un limbo di quel genere, forse qualche domanda in questo senso deve essere posta. Guardiamo insieme questa immagine sul Giordano e chiudiamo con il profilo storico. Segnato nel 1947 una parte della Palestina agli ebrei. Un anno dopo viene proclamato in quel territorio lo Stato di Israele. Gli arabi lo hanno combattuto e hanno perso. Il popolo palestinese è stato costretto a una diaspora. Da allora sono trascorsi 20 anni densi di avvenimenti. Una terza guerra nel 1967, persa dagli arabi, ridisegna i nuovi confini. Israele si attesta sul fiume Giordano. Siamo in chiusura. Il professor Kamel è uno storico, questo è comprensibilmente un libro pieno di storia che prova a rispondere anche a delle domande enormi che adesso non possiamo affrontare. Di chi è quella terra? Chi c'era prima? Dove erano i palestinesi? Chi sono i filistei? Che cosa suggerisce di fare per rispondere a domande così enormi? Perché tutti le usano, perché la storia la pieghiamo, professore, lei me l'insegna. Certamente, dobbiamo sempre ricordarci che questa terra, tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo, non è mai appartenuta a un solo popolo nella sua intera storia. Una città come Gerico, che ha 12.000 anni, è una delle città più antiche del mondo, una città come Gerusalemme, Urushalem, viene da Urushalem, fondata da Shalem, un antico dio cananita, 5.000 anni fa, quindi molto prima dei monoteismi. Tutto questo per ricordarci che qualsiasi approccio che non tenga conto del fatto che la storia precedente e quella posteriore non è stata assorbita da un singolo popolo, da una singola storia, è destinato a fallire. Quindi in ultima analisi, senz'altro, ricordarci che questa terra va condivisa perché è la storia che ce lo insegna. Avete capito, un libro molto prezioso, Israele e Palestina in 36 risposte, pubblicato da Einaudi, scritto da Lorenzo Cama. E professore, grazie per essere grazie a voi. Studi. Poniamo fine a questa trasmissione con alcune parole tratte da una poesia di Taufik Zayad. Noi resteremo qui, come un peso sullo stomaco, affronteremo la fame lottando in stracci. E con queste parole di Taufik Zayad ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 14 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. Now, so good.